America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Borsa di nuovo giù, il Dow Jones ieri ha chiuso al ribasso del 2,13%, quindi una performance addirittura peggiore di alcune delle borse europee. Il contagio europeo di nuovo è bastato un passaggio negativo della Merkel per riportare il pessimismo, perché ci si rende conto qua in America che anche se questa ripresa c'è ancora, non è una ripresa sufficiente per poter restituire all'America quei ritmi di benessere a cui era abituata. Un tasso di crescita del 2,5% non basta, resta debole e soprattutto, vi dicevo, l'America resta vulnerabile ed esposta al rischio contagio europeo. Si guarda dunque al G20 di Cannes, si sta già guardando a quell'appuntamento piuttosto importante. Io sono convinto che si riuscirà alla fine a trovare un accordo, a trovare una piattaforma per affrontare la crisi cosiddetta delle 3C, crescita, contagio e credito, la crisi delle banche. Finora si è parlato poco di crescita e dunque credo che da qui agli incontri di Cannes, che sono previsti per il 3-4 di novembre, si dovrà arrivare a una qualche intesa che includa anche un pacchetto per la crescita. Gli Stati Uniti ci stanno lavorando, Barack Obama sta modificando il suo piano per cercare di convincere il Congresso a votarlo. L'Europa dovrà arrivare a un compromesso, è inevitabile. Silver moons and paper dreams, faded maps and shiny things. You're my favorite one man show, a million different ways to go. Questa canzoncina deliziosa, delicata, è usata da Jeff Bezos, Amazon.com, per fare pubblicità al Kindle. Vi parlo un momento di editoria oggi perché tutto parte da un incontro che ho avuto io stesso l'altro giorno per caso con un mio vecchio amico che si chiama Dane Nellor, il quale, pensate, fino a poco tempo fa si occupava di grande distribuzione di cibo e adesso si occupa di macchine da stampa per libri. Mi raccontava di queste sue macchine. Sono delle macchine che sono in grado di stampare un libro direttamente in libreria in 3 minuti. E dunque un approccio abbastanza rivoluzionario. È stato al Salone di Francoforte, dice che ha già venduto un centinaio di macchine. Mi ha anticipato che una di queste macchine sarà presto in una libreria della Mondadori a Milano in Italia. Questo rivoluziona il modo di fare business per i grandi editori, che non dovranno così fare grande stoccaggio di libri nei loro magazzini per poi inviarli a seconda delle richieste alle varie librerie. C'è un sistema elettronico che ha in memoria 7 milioni di libri, si entra in libreria, se ne ordina uno, quello che si vuole, e questo libro viene stampato, come vi dicevo, in 3 minuti in modo perfetto, stampato, rilegato con l'immagine della copertina originale. Il costo è più o meno simile a quello di un libro normale, ma ci sono dei grandi risparmi di trasporto. Dunque, una piccola rivoluzione che dà potere alle librerie, se vogliamo, sotto un certo punto di vista, e relega il mestiere dell'editore a quello che è poi la parte nobile di questo mestiere, e cioè all'editing, alla scelta dei libri, alla correzione delle bozze e alla gestione del marketing. Proprio ieri mattina però c'è stata un'altra notizia, e cioè che Amazon.com ha deciso di ingaggiare direttamente degli scrittori e pubblicare i loro libri per distribuirli poi direttamente su Amazon, e mettendosi così direttamente in concorrenza con le vecchie case editrici, gloriose case editrici, le quali, devo dire, tremano un pochino, perché pensate che Lawrence Kirschbaum, che è un grande editore che è stato strappato alle case editrici da Bezos, ha già ingaggiato 122 autori per titoli che usciranno questo autunno. Per darvi un'idea della potenza di fuoco, ha pagato $800,000 in anticipo sui diritti all'attrice Penny Marshall, che devo dire non è che sia poi così conosciuta, per le sue memorie. Ecco, vi ho voluto raccontare queste due storie perché parliamo di grande finanza, di economia, di tragedia in borsa, però poi l'economia reale va avanti, l'innovazione va avanti, ci sono nuove scoperte che capitano ogni giorno, settori che vengono in qualche modo ristrutturati e riorganizzati. Quello dell'editoria appunto è centrale a questo, ve ne parlerò di nuovo più in là, ma intanto lasciatemi chiudere con una nota di colore. Cop doppia iniqua, l'aria di Anna Bolena, di Donizetti, interpretazione Anna Netrebko. Perché ve ne parlo? Perché Anna Bolena, rappresentata questa sera al Metropolitan Opera House a New York, sarà trasmessa in diretta, pensate, via satellite, in 44 sale cinematografiche italiane. È un debutto, è la prima volta che il Metropolitan fa anche con l'Italia, e dico anche con l'Italia perché lo fa già con molti altri paesi, e questo esperimento straordinario di trasmettere in diretta satellitare le sue performance live. Questa iniziativa del Metropolitan, beh, devo dire, non sarebbe male se la Scala, per esempio, si ispirasse e la copiasse, ha raggiunto, pensate, 1600 cinema in 54 paesi diversi, raccogliendo così una delle più grandi platee mondiali in diretta, in simultanea diretta, paesi come la Russia, Israele, Cina, Cipro, Repubblica Dominicana, Marocco, insomma, adesso si è aggiunta anche l'Italia. Ci sarà una performance del Don Giovanni il 2 novembre, diretta dal maestro Luisi, che è il direttore d'orchestra in pectore fino a quando Levin sarà malato del Metropolitan, ma molti dicono che presto riceverà l'incarico permanente. Vi dicevo, un altro appuntamento sarà il 2 di novembre. Per darvi un'idea dei dati, da quando la serie del Metal Cinema è stata lanciata nel 2006 sono stati venduti oltre 8 milioni di biglietti. Questo naturalmente aiuta enormemente gli incassi. Direzione della Scala, pensateci. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Sonic Youth hanno deciso di sciogliersi dopo 27 anni di unione, sia professionale che, diciamo così, sentimentale, perché Kim Gordon e Thurston Moore erano sposati. L'annuncio è accolto tutti di sorpresa, ma la band, il gruppo, non annullerà il tour in programma per novembre in Sud America. Dunque dedichiamo comunque a loro, a un gruppo in via di scioglimento, la canzone del giorno, Disappear. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.